Lo hai detto, hermano. No se scherza con Jesus. Fuoco alle polveri. Fuoco alle polveri. Radio Bomba. Buonasera, aiuto! Benvenuti. Aiuto! Alla puntata numero 4. Rinchiuso qua dentro. Siamo rimasti chiusi da ieri sera. Il festival non è ancora finito per noi. Non è ancora finito il festival di letteratura sociale in polveriera. O meglio, è finito per tutti quanti tranne che per me, che sono Grippo, e il mio amico Lapo Lemica. Che niente, siamo rimasti qua chiusi all'interno della polveriera, dei locali della polveriera. I ragazzi della polveriera ci hanno chiuso qua dentro per dispetto. Quindi niente, siamo qua. Continua noi... imperterrita la diretta. Esatto. Beh, questo è il quinto giorno di Festival della letteratura sociale. Esatto. Che si trasforma nel Festival di Radio Wombat. Ne prendiamo possesso ufficialmente. E per dire cosa? Per dire niente sostanzialmente. Per dire che appunto, se siamo chiusi qua, venite a salvarci. Ciao. Questo. Finita? No. Ho finito le cazzate da dire, non so più cosa facciamo. Insomma, cosa è successo in questi giorni qua? No, giusto perché... Cosa è successo ieri sera? Come hanno fatto a dimenticarsi di noi? Erano tutti a bere, a ballare, a ascoltare musica pessima perché non mandata da Radio Wombat. Certo. C'era un DJ, si chiamava... Come si chiamava? Chi era? Insomma, questo dice un tizio strano. Gian Pietro. Parlava sardo, mi sembra. Comunque. No, scherzo, un carissimo saluto a Piero DJ. Grande Piero DJ. Ci ha fatto saltare in aria. Che ieri sera ci ha sconvolti a tutti. Al punto, niente, da generare questo problemino di noi chiusi in polveriera. Niente, si fa fuori le polveri a questo punto. Per la prima volta. Dalla polveriera, dice, si può dire. Si può dire, siamo qui. Siamo chiusi qua, e quindi niente, fuoco alle polveri. Per la prima volta si troverà quest'oggi in polveriera. Quindi vi basti questa come novità. E niente, non lo so, manderei una canzoncina per scaldare gli animi e per organizzarci un attimino nel frattempo. Che cosa mi dici, amico Lapo? Parti. Parto. Aspetta, che ancora non mi ha scelto, sai. Cioè, ho detto. No, non partire. No. Aspetta, ho un'obiezione. Potrebbe essere pericoloso mandare musica a quest'ora della. Che ore sono? Alle 5. 5:20, incredibilmente. Comunque siamo in anticipo praticamente rispetto a di solito. Probabilmente si saranno stupiti per questo. Scusateci per l'anticipo su Fuoco alle Polveri. Sì, scusate, abbiate pazienza. Adesso mandiamo una canzoncina degli Eels. At the rocket launch, the trophy wives of the astronauts, and I won't listen to their words, 'cause I like birds. I don't care for walking downtown, crazy auto car gonna mow me down. Look at all the people like cows in a herd. Well, I like birds. If you're small and on a search, I've got a feeder for you to perch on. I can't stand in line at the store. You are such a bore, but it's alright if you act like a turd, 'cause I like birds. If you're small and on a search, I've got a feeder for you to perch on. E rieccoci. Going up the country dei Kennedy in sottofondo. Rientriamo e niente, con questa atmosfera allegra, così andiamo a parlare un po' di cose un po' meno allegre, perché ieri sera, oltre a una performance straordinaria, ricordiamo ancora, di Piero DJ qua in Polveriera, che insomma ci auguriamo torni molto presto, insomma, a animare le nostre serate. E altre danze si sono svolte, esatto, in altri luoghi non lontano da qua, in Piazza della Repubblica in particolare. Esatto, danze soprattutto sul posto, diciamo. Ironico, la Piazza della Repubblica res pubblica, la cosa di tutti, sì, e sì. Invece non era qualcuno avrebbe voluto fosse soltanto per sé. Sì, esatto, cioè, diciamo che le danze sono state più che altro salti sul posto delle persone. Com'era? Chi non salta un fascista? Poi cosa c'era? Salvini. Odio la Lega, Ce n'erano tanti di cori. Quello mi è piaciuto di più. No, beh, lo dico dopo. Quello mi è piaciuto di più. Ce ne sono stati tanti, e tanti belli anche, in occasione della manifestazione del presidio contro Matteo Salvini, che c'è stato in Piazza della Repubblica, mentre lui era in Piazza degli Stronzi da quell'altra parte della barricata, diciamo, del muro umano, del muro umano di sbirraglia, di guardie, di puffi, come preferite chiamarli, esatto, che impedivano al popolo di compiere quanto avrebbe voluto, diciamo. E cosa dire, niente, abbiamo avuto insomma molti racconti, molte testimonianze di vari compagni che sono stati là, e ci siamo stati anche noi, e abbiamo visto insomma un po' cosa è andato a succedere in quel frangente. Oggi si legge un po' di tutto su internet, ora non ho avuto... Abbiamo visto soprattutto i numeri, cioè cose che non, esatto, non possono... Non possono raccontarci il contrario, non possono mentire, perché abbiamo visto con i nostri occhi i numeri impressionanti di persone che contestavano il cosiddetto ministro dell'interno. Esatto. E a paragone lo scarso numero dei sostenitori, esatto, che si sono visti dietro le guardie. Io dopo un pochino ho visto la foto, mi è stata fatta vedere da un'amica, la foto che gli avevano passato della piazza di Salvini, e insomma l'ho rivista anche oggi, insomma numeri ridicoli rispetto a quelli che eravamo dall'altra parte. Mi sembra anche che i numeri che vengono riportati da diverse testate non siano veritieri. Ora io non è che sono uno bravo a calcolare i numeri delle folle, però a occhio, non lo so, altre piazze vissute di recente, e, non lo so, per esempio, insomma, lì accanto c'è stato un mese fa, nella piazza accanto, in Piazza della Signoria, che sì, è un po' più grande, ma non tanto, c'è stato il compleanno di Battistuta. Lì erano 5.000. Io misuro un po' a piazze, no? Erano 5.000 ed erano pieni zeppi. Era Piazza della Repubblica zeppa ieri, quindi non lo so, non eravamo 2.000, se era di più, secondo me. È stato detto protestano in 2.000, leggo qua adesso, sono su repubblica.it. Mi piace abbastanza il titolo, è stato dato cariche della polizia. Ecco, mi sembra che ieri sia stata proprio la classica situazione in cui c'era ovviamente una provocazione aperta, una piazza così grande che non viene fatta sfilare, non viene fatto fare il corteo, ecco, e sicuramente genera determinate situazioni di tensione. C'era una piazza gremita di persone che comunque sia un po' spinge, perché quando sono tante persone assiepate a protestare su un qualcosa, contro un qualcosa, vanno in una direzione. Sono state fatte diverse cariche pesanti, insomma ci sono state diverse teste, insomma belle spaccate, diversi bernoccoloni, sì, diverso sangue si è visto, così. Ma da un certo punto di vista la situazione, ecco, è tragica, ma in una piazza così grossa, con così tante persone, ecco, il fatto che si vedano queste cose, che le possano vedere tutti, è volendo anche positivo, si mette un attimino in chiaro le cose, ecco, che c'è... Sì, quello che ho capito, tanta parte della piazza erano tanti cittadini sinceri democratici o che si definiscono di sinistra e che però di solito poi finiscono col deprecare le dinamiche di piazza o non riescono a leggere tra le righe dei racconti dei media qual è la verità dei fatti. In una occasione di questo genere forse si sono resi conto di cosa significhi stare in piazza, di cosa significhi subire la repressione poliziesca, di vedersi negati i diritti di manifestare, di manifestare il proprio dissenso certo. In tutte le forme più o meno consentite dalla legge. In confronto, in compenso su Twitter, PD Firenze Città dice: prendiamo le distanze dagli scontri con le forze dell'ordine di questa sera e da qualsiasi manifestazione di violenza. E qui gli do ragione, perché effettivamente erano molto distanti da questo tipo di dinamiche. In prima fila non c'erano, ecco, sono stati anche mandati via in alcune situazioni adotte dai visti. Però gli scontri non hanno nulla di democratico e devono essere stigmatizzati. Firenze è una città democratica e antifascista e nettamente non violenta. Ora ecco, io ci sono stato nelle prime file, abbiamo insomma compagni, persone che conosciamo che le hanno vissute le prime file di questo presidio e ecco assurdo che non si condanni la violenza quella primigenia, quella delle cosiddette forze dell'ordine, cioè. Che le distanze non siano, che un partito che si definisce di sinistra dovrebbe prendere distanze da l'operato delle forze, assurdo, perché poi è il partito che è attualmente qui dirige l'amministrazione comunale e quindi la questura e quindi il dispiegamento di forze dell'ordine e l'orazione, quindi ovviamente si dissociano dalle violenze di piazza, però stanno di fatto difendendo Salvini, stanno di fatto sono complici, certo. Più che altro è la narrazione che viene data, cioè proprio qui si legge prendiamo le distanze dagli scontri con le forze dell'ordine, come se qualcuno avesse cercato lo scontro con le forze dell'ordine, come se fosse sempre colpa dei manifestanti se ci sono gli scontri con le forze dell'ordine. Invece la realtà che si vedeva lì in piazza era che le cariche della polizia non è che sono partite sulla base di particolari provocazioni o di momenti di particolare tensione, a un certo punto sono partite, cioè era studiato che a un certo punto dovessero partire. Poi logicamente se dopo diverse manganellate in testa dei compagni reagiscono insultando oppure insomma in altro modo, qui ci son dinamiche che insomma vanno vissute, ecco, quando uno vede il sangue, quando uno vede la gente pestata, poi voglio vedere chi è che riuscirebbe a rimanere lucido, a non fare un qualcosa in quel momento, ecco. Quindi mi sembra uscendo da questo ginepraio in cui ci siamo infilati, mandiamo... passato in passato, ma passato e lo via. Passi te? Questa double regia oggi veramente. Loro cancellano ma noi scriviamo da capo. Loro cancellano ma noi scriviamo da capo. Loro cancellano ma noi scriviamo da capo. Contagliami Sibiri, una mano me basta e m'avanza. L'invidia qua se magna chi non è mai abbastanza. Fortuna che me faccio i cazzi miei e non ve sento. Fortuna che con poco sto contento. Meglio così sì, che già sta vita a volte amara. La gente qui ad essere stronza fa la gara. Come in questa città dove quello più tranquillo è un rosicone. Chi può appena sta alle tue spalle ti infama il nome. Ho dato sempre solo amore alla mia gente. Se te non l'hai capito sì, davvero non fa niente. Sta bene anche il veleno di un cretino, ragazzino convinto che il successo è il suo destino. Resto indifferente al vostro mondo ridicolo. Vi ho dato 7 anni e non mi avete smosso manco di un millimetro. E ancora non capite, ancora che ve sciaccanite. Siete scrausi dentro, per questo è chiaro che ancora subite. Ma da voi stessi vi vedo poco perspicaci, rapaci, ma non siete capaci. Io faccio il mio e non lo faccio né per loro né per loro. Lo faccio solamente perché se no me moro, zio. E per stile, e per fama, e per denaro. Il prestino del per fama del denaro. Il prestino del per fama del denaro. Scrivo tutta quanta la mia rabbia a questo mondo. Il prestino del per fama del denaro. Il prestino. perché sta gente ha visto mille lire e crede dei valè oro. Sul palco prima che fa buio come all'oratorio, dietro i genitori hanno perso la 24 ore. Zombie questa scena perché solo chi è vissuto muore. Falsi amici stanno alle mie spalle, taglia gole, vanità, somma avidità senza il core. Nella discoteca Canneretto non c'è batte il sole, chiamano sta merda omologata una rivoluzione. 5 chiodi dentro la mia schiena solo al core, come occulto sono 5 punti di pressione. 5 dita per la vita mia consolazione, ti seppellisco lascia perché so che pure lei lo vuole. Più pretese delle prime donne, con più trucco delle prime donne, adorati come madonne, noi ancora in piedi come le colonne di Roma. Voi solamente un bug nella nostra storia, cielo blu come il lampeggiante, alzo il volume perché il rap ha un suono più pesante, più importante, esce dalle casse, infetta la tua mente, per dirtelo che quello che hai lasciato è niente. Né per stile né per fama né denaro, né per stile né per fama né denaro, né per stile né per fama né denaro, scrivo tutta quanta la mia rabbia a questo mondo. Né per stile né per fama né denaro, né per stile né per fama né denaro, né per stile né per fama né denaro, chiaro, e conto da pagare questa volta è caro. Né per stile né per fama. Scrivo tutta quanta la mia rabbia per questo mondo. Né per stile, né per stile, né per stile, né per fama, né denaro, chiaro. Buoni bambini, buoni, buoni. Basta, Mimi. Piano. Piano. Ah, ok, fine. È così uno sketch a caso, non cioè, giusto, giusto, giusto, poche storie. Ripartiamo con un po' di musichetta. Sì, ripartiamo con toni un pochino meno seri, anche perché sento un po' basso il volume della voce. Pronto? Eccoti, eccoti. Dopo 4 giorni di festival, che per quanto bravi siamo a fingere di essere in forma, una zanzara. Non lo siamo mai stati, siamo sfiniti da questi 4 giorni splendida, dalla manifestazione, dal presidio a cui abbiamo seguito anche qua in Polveriera, tutti, sì. La città è un subbuglio. E noi ce la siamo presa nei denti. Per questo rilassiamoci un pochino con una... delle scuse che dobbiamo portare o delle perle volendo molte persone dipende da che punto di vista scusa no sì perché durante questa 4 giorni di festival qui in regia appunto il lavoro è stato lungo, le persone sono state tante, c'è stata una grande confusione, grande gioia e quindi capita in questi contesti di commettere qualche imprecisione, qualche dettaglio ci sfugge, un po' di lucidità, e quindi vorrei intanto a nome di Radio Wombat, degli speaker che si sono succeduti meritoriamente qui a questi grandi microfoni, cominciare con lo scusarmi con intanto il Francesco Codello e non Cordello come è stato rinominato in occasione della sua presenza qua, e che a differenza di quanto detto e scritto nel programma non è il traduttore del libro di Colin Ward che ha presentato, ma il curatore. Okay. Quindi ci scusiamo con Francesco. Prima c'era anche Gabrielli e le piscine termali di tutto, ah, no? Giusto. Ci scusiamo anche con scuse formali da parte di Radio Wombat con il carissimo Enrico Gabrielli, che ha scritto questo libro di racconti intitolato Le piscine terminali, non termali. Però va detto che l'ha scritta apposta perché ci si sbagliasse a leggerlo, sembra. Quindi sì, piscine, sì, poi, su questo piscine termali ci chiediamo scusa, però diciamo anche bravo Gabriele, ci hai fregato. Cioè... Prosegue in ordine perché praticamente ascoltando i podcast, le registrazioni che potete trovare già archiviate sul sito, praticamente non se ne azzeccate uno, se sono toppate un po' tutti i nomi. E quindi la terza presentazione della prima giornata era quella di Wolf Bukowski, con quale ci scusiamo, perché è stato ribattezzato Wolf all'inglese, mentre l'origine è tedesca, e quindi è Wolf Bukowski. Tra l'altro, su Wolf Bukowski, ora, a parte delle scuse e tutto quanto, cioè, si può dire, perché gli abbiamo chiesto, cioè, abbiamo indugiato un paio d'anni di festival di letteratura sociale, però alla fine gli abbiamo chiesto, ma scusa, ma Bukowski, Bukowski? Sì, Bukowski, cioè, nel senso, si chiama davvero Wolf Bukowski. Quindi niente, noi ce l'avamo fatti mille ipotesi, come suppongo chiunque veda quel cognome, ecco. Invece si chiama proprio Wolf Bukowski, di origini tedesche. Quindi Wolf, non Wolf, scusaci Wolf. Dopodiché, le scuse ufficiali del venerdì 17. Buono, abbiamo cambiato giorno, se non altro. Allora, se vediamo, vado un po' a memoria perché non mi ricordo bene. Ah, eccola qua. Ci scusiamo con l'autore di Boy Erased, Vite Cancellate, ovvero Garrard Conley, e non Gerrard, come è stato scritto sul programma stampato, o addirittura Gerald, come era scritto sul podcast delle registrazioni caricato ieri sera, giustamente con la stanchezza di un... Quindi scusaci Garrard, questo per errata corrige, ecco. Giusto. Eva Krushel, io onestamente continuo a pensare che si chiami così, spero davvero che sia questa la pronuncia, nel caso ci scusiamo anche con lei, tanto siamo qua a scusarci con tutti. Sabato 18, le scuse vanno a tutti, tipo, diciamo. Francesca Matteoni, ribattezzata forse addirittura due volte come Francesco Matteoni. Beh, e qui si potrebbe aprire una puntata intera. Una voragine. Fra l'altro, la sola voce femminile del tavolo sulla critica, ribattezzata per completare la mono. Cioè, noi veramente ci scusiamo, siamo costernati, mortificati del... Ma Francesca, che sicuramente ci sta seguendo, fra l'altro, perché è una fan di Soffocare le Polveri, me l'ha confessato. Sì. Quindi la salutiamo con le nostre scuse e la invitiamo a tornare presto. Fra l'altro, Francesca, che dirige, quasi partecipa da tanti anni alla redazione di Nazione Indiana, uno dei blog delle riviste letterarie più importanti nel panorama letterario, della produzione, della critica e diffusione letteraria attraverso i nuovi mezzi, appunto, non cartacei. Un blog longevissimo, credo abbia di più di 20 anni, quindi salutiamo e ci scusiamo. Grazie Francesca, scusiamo per la comprensione, perché è anche fan, comprenderà, si suppone, poi ora magari siamo qui per questo, per farci comprendere. Speriamo. Ci scusiamo anche con Alberto Casadei, che non si è scusato con noi per non essere venuto, ma noi l'abbiamo comunque chiamato in causa, e nonostante la sua assenza, non so, forse queste non... No, cancelliamo queste scuse. Vabbè, scusiamoci, buona, anche con lui, dai, perdonaci. Scusateci su Radio Bomba. Abbiamo invitato, forse non dovevamo. Ciao Alberto. questa la editiamo forse dopo. Sì, poi si leva, non vi preoccupate. Avete sentito qualcosa per caso? Cosa? Come? No. Poi abbiamo Valerio Monteverdi, c'è stato a un certo punto, invece è Monteventi. Però boh, basta alla fine. Quante ne abbiamo combinate ancora? Beh, comunque penso che rimanga imbattibile la figuraccia dello scorso anno, penso fatta proprio da me. Quindi colgo l'occasione per raddoppiare le scuse con Davide Grasso, ribattezzato per l'occasione Pietro. Purtroppo c'era l'area delle zone intorno e questi nomi risuonavano. Pietro Grasso risuonava nel... in giro, e questa è la più grave, gravissima. Viene riportata per 2 anni consecutivi apposta. Sono veramente costernato, ecco. non, per fortuna uso uno pseudonimo e non sa chi sono, non sa chi. No, no, se no sarebbe già venuto da te, ecco, giustamente. Stiamo andando un altro pezzo in tutto ciò, sì, tutte sì, queste sì, scuse, perché penso, ci vuole. Sono qui in profondo imbarazzo e disagio, salvami, salvami. Aspetta. Rippo, salvaci. Va bene. Veloce. Io mando... Aiuto. Aiuto. Rippo. Rippo. No, aspetta, buoni. No, cambiamo, non lo vogliamo. Tutto scusa, improvvisato oggi, comunque. Tutto improvvisato su Radio Wombat. Penso fosse chiaro, ma a differenza degli altri giorni... Qua oggi siamo qui perché siamo rimasti chiusi dentro. No, infatti. Con finito il cibo, finita l'acqua, finito il fumo. Ho detto, che facciamo? Vabbè, spariamoci una puntata di Fuoco alle Polveri. Esatto. Ma spariamoci anche un po' di Blu Vertigo, dai. Ogni tanto le sparo sempre. Un colpevole andrebbe punito. Chi ha successo se ne è meritato. ci sono altre scuse da fare. Ci hanno fatto prontamente notare scrivendoci, come potete fare anche voi, a postawombat@inseberia.net, oppure oggi in via del tutto eccezionale, se volete venire a salvarci, ad aprirci la porta della polveriera così possiamo uscire. Comunque, tre scuse con Michael, di Michael e Mirko, per il ritardo con cui abbiamo fatto arrivare le copie del suo libro qua da noi, ma è stata colpa della pioggia e del traffico e delle cavallette. E poi abbiamo da fare le scuse sempre, ovviamente ci riferiamo agli autori ma anche agli editori, che potrebbero aver avuto un sussulto nel vedere, ad esempio, l'editore di Anthony Cartwright ha visto in programma non il taglio, ovvero l'ultimo e più recente lavoro di Cartwright sulla Brexit, bensì il precedente libro Iron Towns. Disguido, errore, fattanza degli organizzatori, per cui scuse si prolungano anche a loro. E poi qua dare la terza. Ah vabbè, i libri di Gabrielli anche sì, assenti completamente, perché vabbè, perché introvabili, quello come colpa del maledetto sistema editoriale, di cui se vogliamo possiamo disquisire un po', visto che non c'è niente di cui parlare, ma maledetti. Con chi ce l'hai, scusa, che mi ero perso un attimino? Con il meccanismo della distribuzione editoriale che satura il mercato, che costringe gli editori ad indebitarsi per mantenere i loro libri in circolazione, per mantenere in deposito i libri, costringono le piccole case editrici a fare salti mortali e infine a fallire ed essere facilmente acquistate dai grandi gruppi editoriali, da questi appunto grandi mostri della distribuzione, queste grandi compagnie, che alcune che si occupano appunto sia di produzione che di distribuzione, e pensiamo al gruppo Mondazzoli, facciamo finta di niente. Comunque niente, ed è grave, tutte tante di queste case editrici autrici che si autoproducono, che restano schiacciati da questo sistema della distribuzione e difficilmente riescono a emergere, e per fortuna possono fare affidamento, possono lavorare sul piano delle relazioni personali, sul locale, ma non solo, quando si creano reti virtuose di librerie, di indipendenti e di case editrici, compresi appunto eventi come il Festival di Letteratura, come le presentazioni a giro nelle librerie, nei caffè librerie, nella Cité, penso agli altri spazi, insomma. Però al di là di questi circuiti, finora speriamo non per lungo ristretti, si riesce a coltivare un tipo di letteratura, un tipo di produzione libraria che non va incontro soltanto all'esigenza del grande pubblico, al sensazionalismo, alle mode, ma si occupa anche di temi più importanti, o si concentra sul prodotto letterario in quanto tale, e quindi alla qualità letteraria, che poi, come abbiamo sentito in questi quattro giorni, concordiamo, è ciò che interviene di più nella realtà a modificare, a far crescere le coscienze, la conoscenza dell'altro, l'empatia, l'approccio critico alla realtà che ci circonda, perché è questo che certo, fanno i buoni libri e la buona letteratura. E in questo festival si è trovato tanti contenuti interessanti, comunque tanti spunti di ragionamento, tanti argomenti ampiamente calzanti in questo momento e in generale, ecco, con la situazione che ci troviamo a vivere. Sicuramente in questo festival ci sono state tante tante persone, tante menti eccelse che ci hanno illuminato. Ora parlo così perché appunto mi sono seguito buona parte di questo festival e vi invito a ricercarvi le registrazioni e andare a ad ascoltarvi gli incontri, perché non saprei indicarne uno che è stato meno interessante, meno, non lo so, mi sento cresciuto. non si è parlato di letteratura, solo di letteratura. Come il titolo del festival promette, il festival di letteratura sociale, oltre che da letteratura c'è l'ambito sociale, l'occasione di incontro, di confronto, di crescita collettiva, dunque di arricchimento complessivo della comunità. Per cui un grande applauso agli organizzatori del festival, a chi è stato dietro a tutto, a chi è stato dietro le quinte a cucinare per 4 giorni senza quasi riuscire a vedere la luce, diciamo, o a seguirsi compiutamente una presentazione che magari gli interessava, ma c'era da girare il minestrone, se no si bruciava. Quindi i complimenti vanno veramente a tutte le persone che avete visto zompettare in giro per la Polveriera Spazio Comune. Verrebbe da dire complimenti all'organizzazione, se non fosse che l'organizzazione in queste situazioni, nelle situazioni autogestite, negli spazi sociali come la Polveriera, ecco, non è che esista un organizzatore e un fruitore, ecco, non ci sono degli utenti e qualcuno che organizza o che ci fa profitto sopra. È tutto quanto una cosa fatta dal basso, fatta da tante persone insieme, e quindi niente, penso ci sia stata, ecco, questa sensazione di partecipare a qualcosa e di rendersi parte, di essere parte di qualcosa e non soltanto di partecipare passivamente, ecco, ai festival. Nel frattempo niente, abbiamo chiesto un sacco di scuse ai relatori che abbiamo coinvolto all'interno del Festival di Letteratura Sociale, e chiederei un attimino un aiuto a John Belushi per sintetizzare le nostre scuse. Ucciderci. Lo sai che ti amo, baby. Non ti volevo lasciare. Non è stata colpa mia. Che bugiardo schifoso. Credi di riuscire a cavartela così, dopo avermi tradito? Non ti ho tradito. Dico sul serio. Ero rimasto senza benzina. Avevo una gomma a terra. Non avevo i soldi per prendere il taxi. La tintoria non mi aveva portato il tight. C'era il funerale di mia madre. Era crollata la casa. C'è stato un terremoto. Una tremenda inondazione. Le cavallette. Non è stata colpa mia. Lo giuro su Dio. E adesso proprio così. Non è stata colpa nostra, colpa mia, lo giuro su Dio. Come dice il nostro amico, il nostro punto Jake, di riferimento. Jake Joliet Jack. E niente, cosa dire, evviva, ci siamo fatti un po' di profusi complimenti riguardo al festival, come è andato, alla situazione come è andata, ma i complimenti vanno fatti sempre anche a tutte le persone, ecco, un po' esterne, un po' vicine, che si sono avvicinate ulteriormente all'interno di questo di questa manifestazione, ecco. Tutto ciò non sarebbe stato possibile, come non sarebbe possibile adesso vedere il loggiato del chiostro di Santa Pollonia, la Polveriera e tutti quegli spazi, ecco, rivivere di una nuova socialità, di una insomma giorni migliori, giorni più luminosi, ecco, dal punto di vista proprio della fruibilità del posto, per il presidio che c'è stato due settimane fa, a partire da due settimane fa, che ha allontanato, insomma, logiche di prevaricazione, profitto e violenza da questi luoghi. Quindi niente, è stato bello poter ancora una volta e con ancora maggior intensità, ecco, vivere questi spazi, e è soltanto grazie alle persone che ci hanno aiutato insomma, che è stato possibile, ecco, tutto ciò. Io rimarrei in tema Blues Brothers e manderei un'altra canzoncina nel frattempo che pensiamo un pochino a cosa eseguitare. Buttiamola sul sincero, vai. Fuoco alle poveri. Rimaniamo sul tema Blues Brothers. Red down, red all for your feet. Take you home with me, put you in my house. Boom, boom, boom, boom. Ow, ow, ow, ow. I love to see you strut up and down the floor. When you're talking to me, that baby talk, I like it like that. Oh, yeah. Talk that talk. Walk that walk. You love me. I love that talk. When you talk like that, you knock me out right off of my feet. Whoa, whoa, whoa, whoa. Whoa, talk. Allora, rieccoci. Ciao a tutti. Allora, ci stiamo organizzando perché stiamo finendo a fare gli scherzi telefonici ai compagni che non ascoltano Fuoco alle Polveri di solito. Punizione sono... per averci chiuso dentro. Adesso, niente. No, volevo cogliere l'occasione appunto di parlare di un altro evento che ci sarà fra due settimane dopo l'HAC Meeting. Che è dal 30, 31, primo giugno, e forse anche 2. E si svolgerà al Next Emerson, al CSA Next Emerson. La settimana successiva in Polvere è tornato un altro festival, una due giorni di teatro, intitolata Teatro Necessario. Adesso stiamo provando a contattare uno degli organizzatori di questo evento. Vediamo cosa ci può dire. Accorgimenti tecnici: intanto appunto il sabato 8 e domenica 9 sono le giornate previste per questo festival. Intanto provo a chiamare, vediamo se ci risponde, vediamo se è sveglio. Cosa ci aspetta in questo festival? Vedo che ha il programma là davanti. Ah sì, il programma vabbè, sentiamo un po'. Nel frattempo sta squillando. Aspetta. Togli la musica, se no si accorge che siamo in radio. Per appena rispondere la tolgo. Momenti di attesa, Wombat. Dai. Ma perché quando uno vuole fare gli scherzi telefonici non rispondono mai? C'è ritrosia verso i numeri sconosciuti. Ma secondo te se ne accorgono o no? Prima. Nulla. Niente. Questo è lo squillo della disperazione. Niente. Proviamo niente. A cambiare telefono. Proviamo a cambiare obiettivo. A utilizzare un numero conosciuto. Cambia un po' il tenore dello scherzo, ma. Sì, va bene. Almeno proviamo a fargli fare una bella figuraccia. Chissà. Vuoi provare dal mio o provi dal tuo? Ma proviamo dal mio. Dai, prova dal tuo. Non so chi odia meno fra me e te. Mi sa che cosa, almeno continuerà a odiare di più qui. Chi odia di più. No, facciamo a gara probabilmente. Pronto. Oh, benvenuto Tasso, sei in diretta su Radio Wombat. Ti abbiamo telefonato per sapere dell'evento che state organizzando presso la Polvera Spazio Comune del Teatro Necessario. Ora abbiamo parlato poco fa, io e te ci siamo preparati su questa... da cosa volevi partire? Mi dicevi, volevi presentarci il programma? Ma stiamo parlando sul serio, non ci avevamo messo d'accordo su niente, è estemporanea questa. Ma come, non ti ricordi ieri sera mentre bevevi il terzo bicchierino di Assenzio, avremmo fatto questa telefonata alle 6 in punto, scusaci per il ritardo leggero, ma insomma... Stavo presentando giusto il teatro bene, necessario, bene. No? È necessario, quindi anche questa telefonata era necessaria. Bene, ci è sembrato necessario. È necessario bene. Farla ora, soprattutto se l'ha detto ieri, no? Insomma, non ti ricordi. Vabbè. Non mi ricordo, scusate ragazzi, ma non c'è il problema. No, va bene. È stata una puntata di scuse. Intanto buon pomeriggio, buonasera a tutti. Buon pomeriggio. Vai. Ok. Sì, prenditi il tempo di aprire la pagina Facebook che non ti ricordi, ammettilo. No, già in realtà ho già la locandina qui davanti a me. Ah, è preparato l'amico. Ora, non so cosa ho detto finora, appunto, se avete già ricordato appunto che si svolge all'8 e 9 giugno 2019, il titolo appunto è Teatro Necessario. L'obiettivo, perché è necessario, qual è l'obiettivo? Il discorso è molto semplice, è stato trovato anche soprattutto durante le realtà teatrali che hanno attraversato la Polvera, le individualità che si sono incontrate, questa necessità appunto di esprimere teatralmente certi bisogni, che sia personali che sociali, che è impossibile, o impossibile, comunque molto difficile riuscire a comunicare, a portare in scena in circuiti ufficiali, tipo commerciali o anche patrocinati. Quindi abbiamo visto il tuo spettacolo del laboratorio su Pinelli, ad esempio, che era bravo il musicista lì, più che altro mi ricordo. Bravo il chitarrista, mi era piaciuto. Sì, chi è? Fatto, si chiama Simone Faini. un bravo, un bravissimo musicista, un bravissimo cantante, sono molto felice con lui anche a questo progetto. E lo ringraziamo anche noi, lo salutiamo quando lo vedremo. Grazie Grippo. Insomma, ci dicevi sì del Teatro Necessario. Sì, Teatro Necessario, questa due giorni si propone comunque di invitare a partecipare varie realtà teatrali che hanno attraversato anche gli spazi della Polvera, dove avranno anche l'opportunità proprio di proporre non solo i loro lavori, ma di condividere durante il tavolo di apertura di sabato 8 giugno i loro percorsi e quindi le loro esperienze, le loro idee, ciò che hanno visto in tutti i loro, in tutto il loro tragitto, il loro... Infatti leggiamo sul programma il titolo dell'incontro d'apertura è Teatro, Società e Socialità, Esperienza a Confronto. E... oh, è caduta la linea. Ce l'ha fatto lui lo scherzo alla fine. Ce l'ha fatto lo scherzo, allora il telefono subito, non lascio un attimo. No, marca lo stretto, dai, per l'amor di Dio. E appunto, sarebbe, sarà un incontro fra tutti qui partecipanti. Sì, stavo dicendo appunto il titolo del che è, appunto il titolo dell'incontro di apertura del sabato alle 5:30 è proprio Teatro, Società e Socialità, Esperienze a Confronto. E ci partecipano gli ospiti, le stesse persone che metteranno in scena. Relazionare gli stessi ospiti che parteciperanno appunto a questi 2 giorni. Ed è appunto questo titolo che può sembrare anche pretenzioso, però è alla fine il filo conduttore di questo esperimento che stiamo provando a portare in polveriera, anche perché abbiamo visto che c'è tanta voglia di teatro, c'è tanto pubblico che è disponibile e ha voglia proprio di vedere colori, musiche, bei testi, performance, emozioni. E ciò era stato palese, è stato palese giovedì in apertura del festival, la grandissima partecipazione allo spettacolo Unfinished Nietzsche del laboratorio teatrale Underwear Theater. Incredibile, una sala piena, pregna, stragonfia di persone lì per il teatro giovedì sera. Sì, ero presente anch'io, è stato uno spettacolo che non avevo mai visto e mi è piaciuto molto, ed è stata l'ennesima riconferma appunto di questa voglia, il che fa, fra l'altro, fa pensare appunto che spesso ci viene narrata una storia per cui, anche fra l'altro per quanto riguarda la letteratura e quindi un pubblico legge libri e un pubblico, sembra che questi due pubblici, però i lettori e comunque anche gli spettatori e spettatori teatrali non abbiano più voglia, o comunque ne esistono sempre meno, le persone abbiano più voglia né di leggere né tantomeno di andare al teatro. Invece quotidianamente in tutti questi ultimi tempi, in questi ultimi anni, stiamo capendo e vogliamo cercare che sia chiaro, rendere chiaro che in realtà non è che non c'è più il pubblico, non è vero che i libri non interessano più, non è vero che il teatro non interessa più, semplicemente in circolazione ci vengono solo prodotti scadenti, senza star a parlare magari di perché, di per come, però questa è la realtà dei fatti. Visto tutti i risultati che abbiamo avuto portando spettacoli con anche tematiche particolari e anche impegnate a giro, hanno sempre avuto grandi risultati, grandi apprezzamenti e grandi riscontri. Poi non lo so, vogliamo parlare, non so se ne avete parlato, proprio nel citare nello specifico del programma, se vuoi se io faccio elenco gli appuntamenti della 2 giorni, li ho qui sotto gli occhi. Se puoi farlo, grande, ho parlato anche abbastanza. E no, resta con noi, li commentiamo, li approfondiamo, semmai. Certo. Abbiamo detto appunto dell'incontro di apertura, Teatro, Società e Socialità, Esperienze a Confronto, con i partecipanti, si terrà alle 5:30 l'apertura, alle 7:00 il primo spettacolo si intitola Rituale dei Misteri, Voci da Daphne, di Daniela Tamborino, con Daniela Tamborino e al flauto Claudio Ingletti. Sì, di e con, giusto, sì, scusami, di e con Daniela Tamborino. Ok, il secondo incontro teatrale della giornata è con un'altra conoscenza di lunga data degli spazi fiorentini, con il Teatro Contadino Libertario, realtà splendida nata a Mondeggi se non sbaglio, che porta in scena Su questa terra, teatro che uno spettacolo io non ho visto, purtroppo me l'hanno raccontato mentre appunto ho parlato con chi di dovere il Teatro Contadino, è molto suggestivo, che giocherà so, sul buio e insomma su fievole luci. Sono molto curioso su questo spettacolo. E ci saremo a seguirlo, siamo anche noi curiosi. E la giornata si conclude invece, l'ultimo spettacolo è alle 9:15, poi immaginiamo il consueto ritardo che connota lo spazio, speriamo, che si svolge. Speriamo di mantenere bene gli orari del programma, però non si sa mai, anche se apre un altro campo dove è difficile mantenere i tempi. Comunque, a che ora sarà, non ci perderemo sicuramente l'ultimo risultato del laboratorio teatrale della Polveriera su L'Edipo Re. Il laboratorio teatrale è un percorso che ormai da 2 anni, se non mi sbaglio, va avanti in Polveriera, mi confermi? Sì, diciamo anche 2 anni, diciamo e mezzo, perché ci fu un primo esperimento 3 anni fa, da cui alla fine poi è nato un nucleo principale che ha continuato poi negli anni successivi a partecipare al laboratorio di teatro. Senti, vedo che si ripete la domenica il giorno successivo? È una replica dello stesso spettacolo? La domenica si riapre con la replica dell'Edipo Re, per dare la possibilità a tutti gli amici, i parenti dei partecipanti del laboratorio teatro di poterlo vedere, perché non tutti, insomma, per dare un doppio appuntamento, perché non tutti riescono a organizzarsi bene, e noi vogliamo dare anche poi maggior risalto a questo lavoro. E tra l'altro è il secondo che fa il laboratorio teatrale quest'anno, come non so se comunque può essere utile aggiungerlo, a differenza degli anni scorsi, il laboratorio è uscito con una performance in piazza durante durante le passeggiate a San Lorenzo contro la chiusura degli spazi cittadini, con la performance Spigoli contro le zone rosse, di cui c'è anche della documentazione anche sulla rete, tutto molto molto suggestiva. E non contenti, appunto, hanno lavorato come l'anno sempre su un classico, come l'anno scorso fecero sull'Antigone, e anche quest'anno appunto sull'Edipo Re. È ottimo. Di cui io ho visto due, solo alcuni strazzi. Ma non hai visto niente in pratica, è tutto un... cioè, cosa hai organizzato? Vabbè, sulla fiducia. Ottimo che ci sia la replica, perché all'ultima performance del laboratorio teatrale persone sono rimaste fuori perché per mancanza di spazio, la sala era piena, quindi appunto per chi non riuscisse a godersi lo spettacolo il sabato alle 9, si ripete la domenica alle 6, la domenica poi prosegue alle 8:15 con c'è l'associazione Altro Teatro, quella di Antonello Nave, se non sbaglio. Porta l'associazione culturale fiorentina, sì. E porta in scena Il Pane e le Rose, che sarà uno spettacolo di musica e letture. L'Alto Teatro è un'associazione che tende a, appunto, a portare questa versione di performance scenica, che cerca di, appunto, coinvolgere, creare momenti fra prosa e musica, sempre cercando di far riflettere su determinate questioni. Il suo lavoro hanno sempre implicato anche l'immigrazione o le lotte, la storia delle lotte in Italia e via dicendo. Una realtà molto interessante. E dunque, Il Pane e le Rose, 8:15. A cura di Altro Teatro. La 2 giorni poi si conclude alle 9:15, sempre stando agli orari precisi di cui ci fidiamo. Svizzeri. Si conclude come con no? Svizzeri. Dicevo? La Svizzera. No, il festival si conclude con la performance di Underwear Theater, che torna appunto a distanza di 3 settimane nelle sale della Polveriera, sul palcoscenico della Polveriera, con la commedia necessaria, di cui tanto abbiamo sentito parlare. Sì, Il titolo stesso di questi due giorni è stato preso, rubato da, proprio dal titolo di questo ultimo spettacolo che ha proposto, proprio perché la composizione nasce da un medesimo sentimento, cioè questa necessità di espressione che molto spesso rischia, si sente comunque contenuta o che sbatte contro un muro, la necessità di esplodere. È un corto teatrale di Lorenzo Fittelli, che è il fratello del regista che lo porterà in scena, Filippo Fittelli, che tratta in maniera molto particolare delle dinamiche che intercorrono fra le persone, i cambiamenti emotivi fra le persone che proprio fanno teatro, molto molto suggestiva, molto molto intima, ecco. Come testo so che Fittelli è autore di è tratto dal libro di Fittelli, che parlava affrontava appunto la morte del fratello, può darsi in relazione con... No, questo è un testo precedente, proprio del fratello, proprio prima che morisse. Comunque Filippo ha sempre conservato e riproposto in più occasioni durante il suo percorso teatrale in giro per Firenze, la Toscana e l'Italia in generale. È stata portata, tanto per citare un posto, anche ai teatri corei in Puglia. Però era un pezzettino appunto che aveva voglia, io conoscendolo personalmente Filippo, aveva voglia di riproporla e ha trovato questa occasione, la reputata giusta. Sono molto contento perché io stesso sono giusta, un fan di questo spettacolo. Sembra più che appropriata conclusione di una rassegna intitolata Al teatro necessario, questa commedia necessaria di Underworld Theater, domenica 9 alle 9:15. E niente, ovviamente l'ingresso al festival è libero, è gratuito, e ogni sera sarà presente l'angolo bar e una scena per rifocillarsi, tutto autofinanziato e benefit per la Polveriera Spazio Comune, per il laboratorio teatrale, immagino. E niente, grazie Tasso per questa telefonata preparatissima. Grazie a voi per la sorpresa. Immaginavamo che di trovarti con le mani in mano a non far niente, e quindi ci siamo permessi di disturbarti. Che dire? Grazie Tasso. Alla prossima. Ha detto Tasso. Bello Tasso. Ciao. Wombat. Riprendiamoci con un pezzettone degli Agnostic Mountain Gospel Choirs, intitolato Cool Drink of Water, and comes from Great Britain. Yeah, I'm back home. La carica sotto di Agnostic Mountain Gospel Choir. Abbiamo raggiunto il nostro forse limite di sopportazione delle nostre stesse voci, non per la buona musica che il nostro buon grippo ci sta servendo sulle frequenze 1359 AM Radio Wombat, ma non so, abbiamo avuto tutta la trasmissione una presenza importante qui al nostro fianco, che non ha preferito mantenere il riserbo, ma adesso che siamo in chiusura puoi forse fare un saluto. Mi rivelo. Eccolo. Diamo un benvenuto. Sì, ci sono anch'io, un fantasmino che ha seguito tutta la puntata. Il nostro Bernie. Sì, il mio pseudonimo per ora è Bernie. Ma va benissimo. Scoprirà perché chi vivrà, chi vedrà, chi verrà a trovarci qua ad aprire la polveriera per tirarci fuori e salvarci. Lui era nascosto in bagno, era svenuto ieri sera, ce ne siamo accorti prima andando un attimo a fare un goccino. Ah, per questo il binocolo, quindi cioè... sì, assolutamente. Svenuto. Ho portato una quindicina di bottiglie svenute. Ok. E speriamo di... cioè, ti avremo con noi nelle prossime puntate, tornerai a trovarci, resterai chiuso ancora nel nostro bagno, nel bagno della polveriera, ad ascoltare nascosto le trasmissioni di Wombat. Sì, il wombato che swombatta, giustamente. Beh, che fare, non lo so, io intanto ricorderei una cosa a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Wombat, gli affezionati, gli aficionados di Fuoco alle Polveri che quest'oggi ci hanno seguito in questa follia, con uno spot che ci ricorda quanto consenso abbia in generale Radio Wombat a livello mondiale, e si attraversa, insomma, il genere, cioè l'uomo si l'uomo e la donna, l'uomo nel senso gli umani si approcciano a Radio Wombat con gioia e frequentemente, ma sconfina anche nel regno animale la nostra fama e il nostro seguito, soprattutto nel regno animale. Anche le foche bevono Radio Wombat. Ok, appurato questo, grazie, possiamo salutare tranquilli, diciamo che per oggi l'abbiamo dato. E quindi niente, ci vediamo ai prossimi appuntamenti, cioè lunedì prossimo probabilmente. Lunedì prossimo Fuoco alle Polveri, ancora aspettando Fuoco alle Polveri numero 100. Noi non diciamo niente, non spoileriamo, però diciamo che il numero 100 sarà una cosa importante. Una cosa importante, una cosa che prima c'era un prima e dopo ci sarà un dopo. Sì, esatto. E quindi in attesa che questo prima si trasmuti in dopo, cioè in durante e poi in dopo, noi prendiamo buona, e vi diciamo buona e mandiamo la sigla definitiva finale. Wombat. Wombat. Radio Wombat. Da sempre e obiettivamente la migliore. Fuoco alle polveri. Fatemi uscire. Ci apra. Vogliamo andare via. Basta polveriera. Cioè, bella, però. Radio Bomba.